oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Buongiorno a tutti, inizia la puntata di Oltre la Crisi. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Siamo rimasti da soli, sedotti e abbandonati. Oh, meglio soli che malaccompagnati. Ma dai, Willy malaccompagnatore, aia, possiamo parlare male di lui. Quando non c'è. I topi ballano. E vabbè, e noi però ce la caveremo lo stesso. La musica non sarà a livello, la scelta musicale non sarà dei livelli altissimi a cui ci è abituato Willy, ma ce la metteremo tutta. Allora Francesco, oggi partiamo da una cosa che apparentemente non c'entrerebbe nulla, ma invece c'entra molto con la nostra trasmissione. Partiamo da un film, come è capitato in puntate scorse, abbiamo anche accennato a Sanremo, durante Sanremo, e oggi vogliamo parlare dell'evento di questi giorni, della vittoria dell'Oscar, appunto, della grande bellezza, e del fatto che, a parte chi l'ha visto già al cinema, ieri è stato dato in televisione, quindi buona parte, insomma, delle persone, molti l'hanno visto, lo stanno commentando in positivo, in negativo. Ovviamente questa non è una trasmissione di cinema, quindi ci guardiamo bene dal fare i critici cinematografici, ma vogliamo magari partire dal contenuto di questo film, visto che la nostra trasmissione parla di disagio esistenziale. Devo dire che nella grande bellezza il disagio esistenziale è alla sua ennesima potenza. Certo, mi sembra che appunto possa essere al di là di ogni valutazione o di ogni impressione personale sul film, che possiamo solo dare quelle noi naturalmente, perché non siamo esperti, credo che sia abbastanza emblematico, rappresentativo un pochino di quello che è, infatti così è stato letto anche all'estero, di quello che l'Italia è in questo momento, no? Un paese con una bellezza antica che un po' decadente, tutti, anche volendo, certo, che tutti vorrebbero avere, vorrebbero vedere, cui tutti vorrebbero partecipare. E in realtà però dentro questo mondo di bellezze antiche si aggirano una serie di maschere più o meno patetiche, che sono i personaggi di questo film, e probabilmente sono, come dire, ci rappresentano, secondo me, abbastanza bene. Io vorrei partire proprio da questo: ci rappresentano abbastanza bene, anche se non rappresentano tutto il nostro paese, tutta la nostra realtà. A me sembra che sia un film che cioè, come dire, rappresenta un po' le classi dirigenti di questo paese, non tanto questo paese, un po' le classi dirigenti di questo paese, un po' questo con tutti i vizi, il narcisismo, la supponenza. Io non sono d'accordo sulle classi dirigenti, devo dirti la verità, perché magari non facendo feste in terrazze di palazzi storici, ma credo che comunque a piramide un certo senso di patetismo, come l'hai definito tu, si aggiri anche tra chi non dirige e tra chi magari vorrebbe, auspicherebbe un futuro. Mi viene in mente per esempio la scena dell'artista, della performance artistica che nessuno comprende e che nemmeno la stessa artista riesce a spiegare. Voglio dire, qui non stiamo parlando di classi dirigenti, stiamo parlando di comunque persone che stanno provando a trovare una loro via e sono in un vicolo cieco. Sì, no, ma io dico classi dirigenti perché, per esempio, cioè, guardiamo gli aspetti, cioè l'aspetto della festa che tu avevi evocato, che è l'inizio e la fine del film, in definitiva è la cornice, la cornice del film è la festa, no? E io suppongo, ho anche qualche piccola esperienza, che non tutti facciano festa in un modo così disperato, in un modo così svaccato, in un modo così, cioè secondo me quello è un modo, come dire, borghese, alto borghese di fare festa. I giovani fanno, sì, ci sono alcune cose in comune, ci si sballa, ci sono alcune cose in comune, c'è un elemento in ogni festa, c'è un elemento patetico di disperazione, da Pierrot in ogni festa c'è un po' di espressione di infelicità, perché la festa è l'esagerazione del voler uscire dalle situazioni correnti, così eccetera. Quindi tutte le feste in qualche modo hanno qualcosa in comune, ma qui mi sembra che ci sia un segno abbastanza di classe. E io non vorrei usare una terminologia obsoleta, ma mi sembra un film che ha, come dire, sulla borghesia. Le altre classi sociali io non le vedo, proprio non le ho viste. Ci sono gli artisti, ci sono gli scrittori, ci sono i ricconi, ci sono i faccendieri, ci sono gli industriali, ci sono basta, non c'è altro. Ci sono i giovani, ci sono figli però di questa alta borghesia, ma come dire, la gente comune non c'è. E tra l'altro, a proposito di sballo, era notizia dell'altro giorno, metto insieme un po' di cose così mettiamo sul piatto tutto e poi dopo ragioniamo, quanto sia in aumento il consumo di alcol tra i giovanissimi, a partire proprio dagli 11 anni. E quindi, mettendo insieme le suggestioni che venivano fuori dalla borghesia del film, dalle macchiette borghesi del film, e questa notizia, mi viene da dire, c'è una sorta di fuga nel non voler affrontare il percorso di vita di... Sì, intanto io porto acqua al mio mulino. Intanto qui è, come dire, la differenza fra i giovani che bevono, e che i giovani bevono per ubriacarsi. Questi non bevono per ubriacarsi, bevono perché sono disperati, ma il più delle volte non arrivano a certi eccessi. Nel film è così, a un certo punto penso che ci sia anche una battuta: bevo fino a un certo punto, è il tipico modo misurato di bere della borghesia, no? Invece il modo dei giovani è smisurato, senza limiti. Certamente c'è, come dire, dal punto di vista poi del modo di distrarsi, di dimenticare, di divertirsi, si fa nel modo comune in una certa epoca, e i giovani in qualche modo rappresentano, secondo me, il modo di farlo di chi non lo sa fare, di chi ancora non ha trovato alternative, di chi non ha possibilità di dare misura a questo. Tant'è vero, appunto, che si fa in modo eccessivo. I giovani lo fanno in modo eccessivo, questi lo fanno in modo misurato. Capito. Quindi, se volete intervenire in trasmissione, io ricordo i contatti: 333 180 94 94 per i vostri sms. Invece, se volete intervenire in voce, 051 34 64 58, c'è anche una mail: amicidirivivere@gmail.com. Se avete visto il film, se ovviamente, ribadisco, non siamo qui per fare critica cinematografica o gli allenatori di turno, visto che in Italia c'è sempre questa abitudine di fare gli allenatori, registi, critici. E comunque no. Uno degli ispiratori, come ha detto il regista di questo film, è Maradona. Esatto. Uno degli ispiratori di questo film. Quindi, e d'altra parte si vede anche, ci sono anche certe scene che alludono al calcio e così eccetera. E c'è un certo spirito calcistico, un certo spirito goliardico, un certo spirito, cioè, che anche questo fa parte della nostra, come dire, del nostro mainstream, della nostra cultura. Non c'è dubbio. Se volete, insomma, commentare con noi il suo contenuto in un qualche modo, proprio a livello di disagio esistenziale, di risoluzione anche di questo disagio, perché a me sembra che questo film non porti a una risoluzione, si ferma lì. Ma è totalmente disperato, non ci sono vie d'uscita, non c'è luce, non c'è nessuna luce. Ci torniamo alla luce, adesso andiamo in musica. Alan Parsons Project, Eye in the Sky. Torniamo in studio con Francesco Campione per Oltre la crisi parliamone. Stiamo ragionando oggi proprio partendo dal film di Sorrentino La grande bellezza. Allora, per rimanere in tema cinematografico, ti vorrei fare questa domanda, visto che tu hai una certa età. Ti ricorderai sicuramente... Ma sono giovane dentro. Certo, ti ricorderai sicuramente il film di Fellini sulla Dolce Vita. Certo. E in questi giorni molti hanno paragonato, diciamo, il modo di descrivere una certa fascia borghese, appunto, sorrentiniana, a quella felliniana. A livello proprio sociale e psicologico, che cosa distingue secondo te le due descrizioni? Niente, niente, è lo stesso mondo. Secondo me è lo stesso mondo. E da un certo punto di vista penso che sia una delle debolezze del film, nel senso che sembra che non siano passati 50 anni. È quello che volevo chiederti. Sì, c'è per la verità, come dire, ci sono incursioni nel mondo di oggi, per cui per esempio il filo rosso che lega tutti e due i film, i personaggi, che in qualche modo nel film di Fellini è meno evidente, in questo film più evidente, è il fatto che poi fa diventare umani, nonostante il loro carattere di maschere un po' stereotipate, sia i personaggi della Dolce Vita, sia i personaggi della Grande Bellezza, è il fatto che sono tutti personaggi male amati. Sono, cioè? Tutti male amati. Cioè, uno che insegue una che non lo amerà mai, quell'altro che si è scordato del fatto che una l'aveva lasciato anni fa e ha bisogno e recupera la domanda: ma perché mi ha lasciato tanti anni dopo, quando il marito di questa lo raggiunge, così eccetera. Cioè, il problema, questi sembrano tutti una massa di male amati. Cioè, in definitiva, dal punto di vista poi dell'umanità, appunto, che viene rappresentata lì, viene rappresentata l'umanità che è incapace di farsi amare. Cioè, sono tutti di un narcisismo tale che non ci si meraviglia del fatto che nessuno li ama, di una cattiveria tale che non ci si meraviglia del fatto che nessuno li ama. Però questo li umanizza. E questo, come dire, caratterizza anche, da un certo punto di vista, li rende universali come personaggi. Da questo punto di vista, come dire, il fatto che siano appartenenti alla borghesia c'entra fino a un certo punto, perché in definitiva l'essere non amati, male amati, non riuscire a farsi amare, non essere amati, è in definitiva un dramma che attraversa tutte le classi sociali, è un dramma umano. Cioè, da questo punto di vista, i due film, secondo me, toccano una corda importantissima, sia La Dolce Vita in un certo modo, in modo meno evidente, questo in modo più evidente, toccano quella corda lì. Non c'è nessuno che si sente amato, tutti sono stati lasciati, tutti hanno un lutto da elaborare, tutti hanno, quell'altro si uccide, in definitiva c'è come una, per esempio, se ci fosse una storia d'amore positiva, una storia d'amore che due che si amano da sempre, potrebbe fare da controcanto, invece niente, non c'è niente di tutto questo. C'è il segno umano di questa umanità che viene rappresentata, a parte la classe sociale, che si può discutere su questo, è quello che non sono persone che non hanno amore. E insomma, c'è un sacco di materiale per te dentro quel film. Sì. Avresti da lavorare per quei millenni. Ma tu prima hai parlato di maschere. Quanto i personaggi di questo film sono maschere e quanto noi nella vita siamo maschere simili, passami il termine, indossiamo maschere simili. Certo, io direi che noi come italiani siamo molto più mascherati che autentici. Da questo punto di vista penso che questo tipo di cinema, questo tipo di in cui appunto ci sono delle maschere che agiscono, in qualche modo ci rappresenta molto bene. Perché ci dicono italiani? Perché è una nostra caratteristica, è un po' una nostra caratteristica che non corrisponde. Per esempio, il primo punto è: tu giri per una città come Roma e giri a Parigi, no? I romani sono molto più eleganti dei parigini, è molto più curato il look degli italiani. Già in questo, nel curare il modo di vestirsi, c'è un mascheramento. Gli stranieri sono più autentici, più veri, più sciatti, più. E da questo punto di vista, certo, cioè, come dire, la maschera è un modo per abbellirsi, è cultura, no? È cultura. Quindi, da un certo punto di vista, la nostra bellezza è una grande bellezza, ma è anche in autenticità, è anche, come tutta l'arte in qualche modo, è anche mascheramento, ed è anche cultura, cioè un tentativo di metterci una sovrastruttura sopra la realtà in modo da farla sembrare più bella, no? Beh, io intanto ricordo i nostri contatti. Se avete visto il film e ne volete parlare con noi, al 333 180 94 94 con i vostri sms, oppure 051 34 64 58. procediamo con questa disanima in un qualche modo. Non riesco a capire come stanno insieme maschera e autenticità. Nel senso, stanno insieme nel senso che sono opposti. Ah, ecco. Cioè, nel senso, e anche nel senso che la maschera, in qualche modo, quando è grottesca, per esempio, quando non riesce a mascherare del tutto, in realtà sottolinea quello che autenticamente c'è sotto, no? Ecco, per esempio, quando le maschere cadono, che la festa finisce, sono tutti sfatti, o quando cade la maschera del comunista, c'è una scena a un certo punto in cui sono tutti cattivissimi, cioè quando cade la maschera si capisce cosa c'è sotto, no? Cioè, quindi la maschera in qualche modo serve a nascondere, ma serve anche a sottolineare quello che c'è sotto quando non funziona. E quello che c'è sotto, insomma, in quello che c'è sotto a queste maschere, però, si possono riconoscere tutta una serie di disagi di cui anche abbiamo parlato. Tu prima citavi quello del non essere amati, ma ce ne sono un'altra serie. Per esempio, mi viene in mente l'attore che mai si realizzerà, oppure lo scrittore che ha scritto un libro e poi si è fermato lì. Sì, esatto, il fallimento. Il fallimento. Ma anche, oltre che il fallimento, il fatto che non si è riusciti a trovare una via se non quella di rimuovere il fallimento e per venirne fuori. Sì, sì, una crisi che non si risolve e in realtà attraverso una grande cultura si maschera, cioè si fa un'operazione poi di restauro. Che in qualche modo, ecco, per esempio, la stessa atmosfera romana che si percepisce, tu percepisci che è poi in fondo l'essenza di Roma come città, è una città con le più grandi brutture dentro le più grandi bellezze di tutti i tempi, no? Non c'è dubbio. Basti pensare cosa sta accadendo in questo momento a Roma, nella periferia romana. Non si può, l'acqua non si può né bere né fare il bagno. L'acqua non si può usare, dice la ordinanza, per scopi umani. Ora ti sembra che in una città, cioè ti sembra tollerabile questo mix? No. Non è tollerabile. Roma è così e ogni tanto infatti si intravede, per esempio anche nel film, anche se domina la maschera della bellezza, domina la maschera della bellezza, la grande bellezza. Io suppongo, se il regista è uno molto intelligente come penso, suppongo che lui ce l'avesse in testa questo, la grande bellezza come grande mascherata per mascherare le miserie di Roma. Io penso anch'io questo. Penso che lui ce l'avesse in testa questo, perché si percepisce. Cioè c'è una tristezza terrificante quando perché sono queste cattedrali, queste dentro un mondo che è un mondo in disfacimento. E d'altra parte Roma è proprio così, è una città bellissima, la più bella città del mondo, con la spazzatura in mezzo, l'acqua che non si può bere, la corruzione. Un mio amico romano la chiama Roma puttanona. Ah, ecco, così tanto per... tanto per dirla in un modo. Sì, devo dire che anche la scena quando girano in questa sorta di villa museo dove ci sono delle opere strepitose, però dà un senso di angoscia e di tristezza, non di bellezza, con tutto che ci sono sculture, pitture, però un po' l'utilizzo delle luci, eccetera, fa pensare a qualcos'altro di brutto dietro. Sì, soprattutto fa pensare che sia una bellezza nascosta, che si mostra solo a pochi eletti, no? E cioè in fondo solo per pochi, e poi che è costretta a nascondersi. Cioè, per esempio, Roma, se effettivamente a Roma, mentre tu giri a Roma, ti rendessi conto della bellezza, della grande bellezza che c'è, cioè, come dire, la maggior parte di quelli che girano a Roma dovrebbero vergognarsi a girare in mezzo a Roma, perché sono talmente brutti. E quindi Va bene, allora andiamo in pubblicità intanto. A proposito di grande bellezza, riordiniamo le idee, ridiamo i nostri contatti 333 180 94 94, oppure se volete intervenire viva voce 051 34 64 58. L'avete visto in tanti, dai, aspettiamo i vostri contributi e un aiuto appunto a animare la riflessione insieme a me, insieme a Francesco Campione. Love is a bird that spreads its wings and flies away. Love is a bird that spreads its wings and flies away. Tonight my heart will be crying. Tonight my heart will be sad. Tonight the wind will be sighing for the love that I once had. The moon is there in the sky above, but not the way it was before. E sulle note di Solomon Burke rientriamo in diretta per questo Oltre la crisi parliamone, e lo spunto da cui siamo partiti è stata proprio il film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, che tra l'altro è stato dato ieri sera in televisione, quindi ha dato l'opportunità a molte più persone di vederlo se già non erano riuscite a vederlo al cinema. Ma Francesco, la mia domanda era un po' anche questa: andiamo sugli italiani, come dire, gli italiani che accolgono questa notizia dell'Oscar. E prima parlavi di tifo calcistico e mi sembra che questa notizia sia stata accolta un po' alla maniera del tifo calcistico, con spesso anche frasi e parole spese sulla grande creatività italiana, insomma, volemose bene, stiamo tutti uniti. Mi ricorda il Tutti Uniti del Sanremo di Morandi, non lo so. Sì, è una cosa che secondo me ha due facce, una faccia positiva e una negativa. La faccia positiva è, come dire, il fatto che c'è una cosa che riguarda gli italiani, quindi il nostro orgoglio di essere italiani, e dal punto di vista per esempio della crisi può essere utilizzata, infatti qualcuno cerca di utilizzarla in funzione anticrisi, no? Finalmente una bella notizia, finalmente qualcuno che ci riconosce che abbiamo delle cose buone, che non siamo così scarsi, e su quello possiamo puntare, anche perché abbiamo una grande cultura, non solo a Roma, ogni borgo italiano c'ha della storia, così eccetera. E questo, come dire, è l'aspetto positivo. In c'è realtà, anche Pompei che sta cadendo. Pompei che sta cadendo, però Pompei ce l'abbiamo noi, non ce l'ha nessun altro. Ah, non c'è dubbio. Quindi, da un certo punto di vista, noi, come dire, possiamo farne una sfida per uscire dalla crisi. Cioè, può essere, in definitiva, c'è chi dice, e non ha tutti i torti da un certo punto di vista, cioè è un argomento abbastanza forte. Però, cioè l'argomento per cui si può uscire dalla crisi se si parte da quella che è l'identità profonda di un paese, di una cultura, e la nostra civilizzazione è quella civiltà lì, quella mostrata da quel film, naturalmente, no? Anche se io dal mio punto di vista penso che ci sia ben altro che Roma, e di più e meglio anche in Italia. Comunque si può partire da lì per affrontare la crisi e dire possiamo uscirne puntando sulla nostra identità, che è l'identità data dalla nostra cultura, e noi l'identità ce l'abbiamo perché abbiamo una grande cultura, rifacciamoci a quella, da lì ripartiamo e possiamo sormontare le sfide del nostro tempo. Questa è la parte positiva. La parte negativa è un'altra. È quella che alcuni potrebbero definire, dimmi se sbaglio, un'arma di distrazione di massa? Un'arma di distrazione di massa? Io non volevo arrivare lì perché mi sembra che quello sia, come dire, un po' ormai un luogo comune, perché di distrazione di massa ne abbiamo tantissime, okay. Anche più efficaci di quella. Per le grandi masse ci sono distrazioni di massa più efficaci. C'è il calcio, per esempio, che non c'entra niente con la nostra cultura classica, ma che distrae moltissimo. No, l'altra cosa invece, la parte che a me sembra negativa è che è quell'aspetto, come dire, di conservazione che c'è in questo tipo di discorso, no? Io mi ricordo quando ero ragazzo al liceo, io ho fatto il liceo classico, figurati se non sono sensibile a questo tipo di discorso, mi ricordo che c'era una divisione chiara in classe, no? E quelli di destra, quelli conservatori, pompavano così il nostro passato glorioso, così eccetera. Quelli di sinistra dicevano: beh, però bisogna guardare al futuro anche, non bisogna guardare. Allora, il problema è: il nostro futuro può essere costruito sul passato, o necessariamente ogni futuro, se quel passato ha portato a uno sfacelo o una crisi, ogni futuro deve essere in qualche modo un tradimento o un miglioramento del passato? Allora, sul passato, sul nostro passato classico, cosa si può costruire nel mondo di oggi? Si può costruire molto nel mondo di oggi, purché però ci sia creatività. Non ci si può basare, per esempio, la grande tristezza del film La Grande Bellezza è che tutta quella bellezza lì è tutta una bellezza morta, morta e stramorta. Cosa c'è di attuale? In cosa commuove un palazzo così un giovane di oggi? In niente. In niente. Quindi non si può dire ai giovani: puntate su quella cosa là, giovani che non ne vogliono sapere di andare in quella direzione. Allora, c'è un grado di verità, però c'è anche un'altra parte. Il nostro futuro, cioè noi possiamo veramente puntare sulla nostra grande cultura se prima facciamo un passo in una direzione del futuro, nella direzione del futuro, non necessariamente a partire dalla dimensione del passato, perché ricordiamoci che il passato, da un certo punto di vista, anche se un grande passato, è un passato di resti, è un passato di rovine, un passato di distruzione, un passato di crisi. Il grande impero romano noi ce l'abbiamo alle spalle, nel senso che l'impero romano non c'è più, nel senso che non è stato in grado di durare oltre un tot di secoli. Quindi il nostro grande passato è anche la nostra grande crisi. Quindi o noi siamo in grado di andare oltre, per esempio, certi valori che vengono dalla cultura classica, per recuperarne altri, e dopodiché possiamo tornarci, e sarà importantissimo, oppure la cultura classica può essere anche una palla al piede. Che cosa intendi quando dici guardare al passato, però considerare, prendere in considerazione il passato e però guardando al futuro? Nel senso, giustamente tu dicevi, un giovane che vede delle rovine dice: ok, potrebbe essere un commento, sono dei sassi buttati giù. Ma i giovani sono tutti, la grande massa dei giovani non gli interessano quelle cose lì. Cioè quella cosa lì, il film di Sorrentino è un film per vecchi, non è un film per giovani. Ai giovani non gliene fotte niente di quel tipo di... Cioè, se noi volessimo farli innamorare di quel nostro passato... Ecco, questo intenderei. Perché sarebbe giusto, non è giusto abbandonare il passato, perché vuol dire abbandonare la memoria, non avere storia, con tutta la tragedia che questo comporta. Però è sempre da un punto di vista diverso del futuro che si guarda il passato. Non si può guardare il futuro dal passato, perché dal passato si vede quello che si vede dal passato, cioè rovine. E quindi come li facciamo innamorare? Il problema nostro è che la nostra cultura dovrebbe lavorare per far sì che lo sguardo sia rivolto verso il futuro. C'è quella bellissima immagine classica di Benjamin una persona guarda avanti oppure mentre cammina guarda indietro. Noi per esempio col film di Sorrentino ci invitano a guardare indietro, no? Quando dicono la cultura, quando dicono non dobbiamo abolire la filosofia, per esempio adesso c'è questa polemica, vogliono abolire o ridurre l'insegnamento della filosofia nelle scuole eccetera, che è una tragedia ovviamente, io non è che penso che sono d'accordo, però il problema è che non è che può essere tutto ristretto a quello. Per quale motivo non vogliamo abolire la filosofia? Perché la filosofia di per sé fa progredire il mondo? No, certe filosofie fanno progredire il mondo, altre lo fanno arretrare. Quindi il nostro problema è di avere una nostra filosofia all'altezza dei tempi e non guardare solo alle filosofie del passato. Una volta avuto una filosofia nostra, cioè una visione del futuro, una, all'altezza dei tempi, un progetto esistenziale comune, per esempio gli Stati Uniti del mondo, no? La filosofia, gli Stati Uniti del mondo, la pace universale, da quel punto di vista si può guardare al passato. E se si guarda dal punto di vista, da quel punto di vista, per esempio dal punto di vista della pace universale al passato, il passato è un insieme di guerre rovinose, terrificanti. Non è, anche se hanno lasciato cose bellissime, anche se il passato ha lasciato resti bellissimi, noi ci dimentichiamo se che sono, per esempio, le piramidi sono il frutto della schiavitù. Della schiavitù, migliaia di persone in schiavitù hanno costruito le piramidi. Perché ce lo dimentichiamo? Le piramidi sono bellissime, sono la memoria storica dell'Egitto e di una parte della nostra cultura, ma però non possiamo guardarle solo dal punto di vista del come se fossero belle e basta. Sì, sì, dici, va valutato anche il contesto. Bene, e quindi io ti propongo musicalmente i Black Sabbath, andiamo proprio sul sicuro, con Born to Lose, a proposito. A proposito. Nato perfetto. Down, someone tell if I am wrong. Beh, dopo i Black Sabbath ritorniamo in diretta, visto che il titolo era Born to Lose e io non riesco ad arrendermi a questa per i Black Sabbath realtà. Io voglio sapere da te come se ne esce da questo senso di angoscia, di nulla che è, che ti lascia questo film, insomma. Ma per esempio nel film c'è un indizio, no? Il personaggio del film, lo scrittore fallito, che è il protagonista del film, a un certo punto dichiara, volevo scrivere un libro sul niente e non ci sono riuscito. Un libro sul niente lui voleva scrivere. Cioè, in definitiva, in questo secondo me c'è anche, come dire, una sapienza del regista. In realtà la nostra cultura è una cultura dell'esorcismo del nulla, una cultura della lotta contro la morte, no? E in realtà, se tu ci fai caso in quel film, poi alla fine la morte trionfa a tutti i livelli, no? Quello che è morto trionfa su quello che è vivo, trionfa a tutti i livelli. Il problema nostro è precisamente questo. Il problema è come costruire una cultura che sia una cultura della vita, che non venga appunto minata alle radici dal pessimismo della cultura della morte, che non si riesce neanche a rappresentare. Tu cerchi di dire, poi si muore, c'è il niente. A cosa serve tutto questo? Che poi è il nucleo di ogni lavoro e di ogni civiltà. Ogni impegno culturale, civile, di ogni epoca, si basa su come si risponde alla domanda: ma poi, se dobbiamo finire tutti morti, che senso ha fare tutti gli sforzi che la vita comporta? E allora la nostra cultura è la cultura che cerca, prima credeva nell'aldilà. Una volta che non ha smesso di credere all'di là con l'illuminismo, è venuto fuori l'idea del nulla, e quindi lo sforzo della nostra cultura è di dire: il romanzo che voleva scrivere lo scrittore del film, rappresentiamocelo questo nulla, che sarà il nulla. Non ci sono riuscito a scrivere quel romanzo. Quella è la nostra cultura, non è riuscita a scrivere quel romanzo, cioè pensa che dopo la vita ci sia il nulla, non riesce a rappresentarsi il nulla ed è bloccata. Allora, ci scrive Andrea, direi: il film l'ho visto due volte, a mio gusto terribile, però dice anche: buongiorno, alla LUIS il rapporto docenti-alunni è 1-8, la cultura vive nella conoscenza, la chiesa ha combattuto le donne, la controcultura, la storia e l'astronomia, non si può dire che i giovani non sono interessati alla storia magister vitae, ma forse non era quello che avevamo detto in realtà. Comunque, alcuni spunti interessanti Andrea ce li dà su questo. Sì, a proposito della storia magister vitae, penso che non ci sia nessun giovane che possa pensare alla storia come maestra di vita, perché se prendiamo la storia come maestra di vita, concluderemo che la guerra ci sarà sempre, che la natura umana è cattiva e che non c'è un cavolo da fare mai. Perché finora non abbiamo risolto un bel niente. La storia ci dice, se guardiamo la storia per imparare come fare per il futuro, siamo fregati. Quindi non è vero che la storia è maestra di vita. È una delle più grandi balle della storia. Perché la storia, quello che ci insegna, sono le cose più turpi che si possono immaginare. Forse nel senso che appunto sono le cose... La storia ci può insegnare quello da evitare nel futuro. Certo, no, ma la storia bisogna farla, costruirla. Noi abbiamo bisogno di altre storie, non della solita storia. Il problema è la solita storia, e sappiamo benissimo cosa ci insegna la solita storia. Cioè ci insegna la solita storia che tanto non c'è niente da fare, che tanto tutto andrà sempre nello stesso modo, che tanto l'umanità sprofonderà nel nulla, che tanto è tutto assolutamente inutile e insensato. E quindi però dicevamo, perché io voglio arrivare a una conclusione oltre la crisi, puoi arrivare oltre la crisi, se no cambio il titolo alla trasmissione, Francesco, no, perché andiamo oltre la crisi. Come usciamo? Cioè, intanto è vero che siamo che intorno a noi c'è solo il niente e che c'è solo quello da descrivere. Io non sono neanche d'accordo su questo. Assolutamente sì, neanche io sono assolutamente d'accordo. Per esempio, nella nostra vita, ma è tutto ciò che non ci interessa, c'è altruismo, certe volte dubbio, ma sempre altruismo, c'è gratuità, certe volte dubbio, ma sempre gratuità, certe volte solidarietà, sempre dubbia, ma spesso c'è solidarietà, c'è amore, c'è creatività, c'è festa, reale festa, non festa per distruggersi, non festa per distruggersi come la festa del film, non festa distruttiva, ma c'è festa, cioè c'è celebrazione dello stare insieme, celebrazione della gioia di stare insieme, perché la festa è proprio quello, è la celebrazione della gioia di stare insieme. Tutto questo c'è, ma tutto questo non produce abbastanza per cambiare il mondo e la vita. Finora non ha prodotto abbastanza per cambiare il mondo e la vita, perché c'è tutto questo, ma c'è anche l'egoismo, il male, l'odio, la violenza, la guerra, l'insensibilità nei confronti degli altri, la tristezza e la depressione, cioè c'è anche tutto il contrario. Allora il problema, credo che per andare oltre la crisi, quello che bisognerebbe fare per una volta nella storia, tradendo la storia, no? Tradendo la storia, è di cercare tutti insieme di fare più bene che male, cioè di fare in modo che il bene sopravanzi almeno di una virgola, non dico di tanto, che sopravanzi il male almeno di una virgola. Per esempio, nati per perdere. Tutto si perde, gli amori finiscono, la vita finisce, le carriere finiscono, tutto finisce, la salute finisce, tutto, la giovinezza finisce, tutto finisce, le feste finiscono, finisce tutto. Ma come ci confrontiamo con questa fine? Bisognerebbe tutti insieme cercare di trasformarla in un nuovo inizio. Non necessariamente per tutti, in un nuovo inizio. Per esempio, uscendo da certi egoismi. Per cui, per esempio, se per me non c'è più festa, se per me non c'è più gioventù, che io sono vecchio, me ne frego dei giovani, anzi li odio perché sono giovani. No, dovremmo lavorare per fare in modo che continui ad esserci festa per altri, in modo tale che alla fine il bene sovravanzi il male di almeno una virgola. Di almeno una virgola. Di almeno una virgola. E questo mi lascia sempre un po' perplessa, lo sai, perché comunque non riesco a cogliere gli strumenti per fare questo. Gli strumenti sono, in questo secondo me, una delle più grandi cose che l'uomo ha prodotto è la, come dire, il desiderio di essere a immagine e somiglianza di Dio, tanto che poi ha cercato per tanti secoli, sta cercando tuttora di essere Dio, Dio è morto e al posto di Dio ci sono io, no? D'accordo? Questa cosa qui, il fatto di immaginarsi somiglianti a Dio, da cosa deriva? Deriva da una cosa reale, dalla creatività umana. L'uomo è creativo, in questo è la speranza, cioè la speranza è non tanto nella escogitare mezzi prima, ma nel poterli trovare mentre si prova. Mentre provi a fare il bene, ti apri le strade del bene. Creativamente. Dici, sai, ma vorrei saperlo prima come si fa. No, prima non si può sapere come si fa, te lo devi inventare. Ok. Quindi adesso passiamo la settimana a inventarci come fare. Sopra una virgola in più, avanzare di una virgola in più il bene rispetto al male. E a questo punto io direi che possiamo salutare i nostri ascoltatori. Se vogliono scriverci durante la settimana in merito, gli vengono in mente i pensieri in merito a quello che abbiamo detto oggi eccetera, sono i benvenuti. La mail è amicidirivivere@gmail.com. noi diamo l'appuntamento alla prossima puntata, mercoledì prossimo, sempre dall'1 alle 2. Ringraziamo tutti coloro che ci aiutano a ravvivare la trasmissione e diamo l'appuntamento a quest'altra settimana. Cosa ne pensi, Francesco? penso che vada benissimo, saluto anch'io tutti e diciamo che appunto la bellezza è grande quando si trasforma in bene. Ecco, mi piace questa chiosa finale, la provo. Oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.